Base, aspetta. Volare, oh, oh, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù con te.